ti do un consiglio, esci dal nascondiglio, scrivilo, disegnalo, cazzo, oppure diglio. Com'è che vive la gente, di che si vanta? Qua si parla, non si tace, tipo anni 50. Sento discorsi anacquati, tu lo sapevi, che prima o poi ci affoghi nelle storie che ti bevi. Se c'ho il cervello penso, se penso esplodo. Non faccio il finto tonto perché lo vogliono loro. Spero in qualcosa di buono per l'avvenire. Sì, dico così, aspetta però che non finisce qui. C'è chi si muove coi tentacoli, ispezionando il cerchio quando può, cerca di arraffarsi gli angoli. Ci hanno programmato con dispositivi totalmente fuori luogo che ci rendono passivi. Tocca essere incisivi agli occhi di chi non gli fotte un cazzo se noi siamo morti o vivi. Porto avanti lo screzio e levati di mezzo, tu con la tua fottuta spirale del silenzio. Le bestie non sarà possibile ingabbiarle, noi teste calde mandiamo tutto in panne. Morto che parla, esce, gioca, si sciocca, trinca, fuma, sbocca. È la realtà che ti intrippa, la coscienza intoppa, su ogni nota trova la tua svolta. Morto che parla, esce, gioca, si sciocca, trinca, fuma, sbocca. È la realtà che ti intrippa, la coscienza intoppa, su ogni nota trova la tua svolta. Viviamo in piena in quest'era in cui l'atmosfera è da scempio, qui la cultura si azzera, che ormai nessuno dà esempio. Quando il PMP al governo e pare che il tempo sia fermo, qui non ci serve una pera, noi coltiviamo il fermento. Qua sul cemento ogni sera, quando si eleva il lamento, fa leva, leva il tormento, storaccia, levi, alimento, il gap. Generazioni X, no peace, no kiss, no bis, hai poche chance, giocati sti tris rap. Gli adulti ormai non rappresentano più, il nostro mondo è più là, a noi ci vogliono giù, perché il lavoro che hai tu me lo propongono, dai, precari ubriachi da room, qui non ci assumono mai, su dai, tutti uguali subito, un po' dubito, cubo di Rubik truccato, sentiero a senso unico, società stop, finto effetto ludico, troppi shock, siamo brocchi, i ricchi segnano subito, tocco in testa, mica lo sono, continuo la protesta, se resta solo se resto solo, per questo vivo la festa, per questo rap con loro, la mia speranza è sta gente, l'amore vinca sull'oro. Morto che parla, esce, gioca, si sciocca, trinca, fuma, sbocca. È la realtà che ti intrippa, la coscienza intoppa, su ogni nota trova la tua svolta. Morto che parla, esce, gioca, si sciocca, trinca, fuma, sbocca. È la realtà che ti intrippa, la coscienza intoppa, su ogni nota trova la tua svolta. Tutti in piazza, i precari si incazzano. Ma cosa te ne frega se sei precario, dico io. Io sono precario da una vita. Se non scendevo in campo, mi facevano fuori. Io me ne fotto del tempo passato scrivendo, cercando un destino più certo, più cerco lavoro, più cado nel fondo. E questo lo fanno per fottere il mondo. Rapine, mine, rime sulle cime di chi regna. Spine tra le righe di chi lotta e non fregna. Legnate sulla schiena di chi sta contro la iena. Rinnega e non prega perché in mano rana accetta. Allenta la presa, è lenta e incompresa. Aspetta e spera. Oh cazzo, ora spara. Non resto fermo, investo ogni momento sul contesto. Orientamento giovanile, o canci il culo per pensare all'avvenire. Dire che lavorano per noi, o ci fanno o ci sono. Se ci foton come voi, se voi lavoro bene come l'asino. E state neanche zitto se no al massimo vieni licenziato via col minimo. Tanto per campare o tanto per crepare, o per finire dentro in gabbia sei costretto anche a rubare per mangiare. Continuare a studiare, ma studia il modo giusto per poterli ribaltare. Morto che parla, esce, gioca, si sciocca, trinca, fuma, sbocca. È la realtà che ti intrippa, la coscienza intoppa, su ogni nota trova la tua svolta. Morto che parla, esce, gioca, si sciocca, trinca, fuma, sbocca. È la realtà che ti intrippa, la coscienza intoppa, su ogni nota trova la tua svolta. Yeah.